è vero che Mario Balotelli a gennaio arriva alla Juve? Perché sinceramente a me, da juventino, anche se me lo regalavano, non me lo prendevo. Da questo momento, e lo dico quasi quasi credendoci, il Palermo vincerà lo scudetto. Volevo sollevare un attimo il livello del colloquio dopo aver sentito Cassano, perché veramente non si può sentire. Tutti convocati. Franco Piantanide in redazione, Roberto Scaltretti in regia, un saluto da Giovanni Capuano perché abbiamo dato qualche giorno di meritato riposo al titolarissimo Carlo Genta, però siamo qui e siete tutti convocati per parlare prima di tutto, ma non solo, della crisi del Milan e del grande ritorno di Silvio Berlusconi, perché oggi lo scrivono tutti i giornali, venerdì mattina a Milanello si tornerà a sentire questo rumore, il rumore degli elicotteri. Sì, il Presidente nel suo tempo diciamo che può dedicare assolutamente, vuole stare vicino alla sua creatura, quindi che è il Milan, e venerdì verrà a spronare giocatore per giocatore prima della partenza per Napoli e andiamo avanti con Allegri. E chissà se ci sarà davvero anche la musica della cavalcata delle Valchirie come nell'estate del 1986 per quello che fu il debutto di Silvio Berlusconi sulla scena del calcio italiano all'Arena di Milano. Buon pomeriggio a Furio Fedele, collega del Corriere dello Sport. Sì, buongiorno, era esattamente il 18 luglio 1986. Esatto. 18 luglio 1986, a quanto la quoti la musica della cavalcata delle Valchirie, no, venerdì? Mi sembra che più di cavalcata bisogna parlare di rimonta, almeno in campionato, e c'è poco da cavalcare perché purtroppo il Milan non è certo più quel cavallo di razza che ha dominato per tanti anni in Italia e in Europa. E mi sembra che la situazione sia molto grave sotto tutti i punti di vista. Nelle prossime 5 partite Allegri, ammesso che possa essere ancora lui l'allenatore da qui fino a Natale, dovrà fare non bene ma benissimo contro Napoli, Anderlecht, Juventus, Catania e Zenit. Tutto questo da sabato prossimo al 4 dicembre. Tutto questo sul finale furio della cavalcata delle Valchirie. Io non dico una sentenza, poi ne parliamo anche con Giovanni Galli. Buon pomeriggio, Giovanni. Sì, ciao, buon pomeriggio. Ciao, Furio. Ciao, Giovanni. Ciao. Giovanni Galli, che quel giorno all'Arena di Milano c'era, correggimi se sbaglio. Sì, c'ero. Ho l'impressione che non sia cambiato solo il Milan, forse è cambiato anche Berlusconi da allora. Penso proprio di sì, insomma, 26 anni, in questi 26 anni penso che il Presidente abbia scritto storie, pagine importanti sia nel mondo del calcio che nel mondo della politica, della nostra nazione, insomma. Però niente musica venerdì. La musica... sarebbe bello perché potrebbe ridare magari anche un po' di entusiasmo a questi ragazzi, ma credo che soltanto la sua presenza, soltanto il suo arrivo, il suo saper comunicare, se farà come faceva con noi quando veniva a trovarci il sabato mattina, che ci prendeva sotto braccio uno per uno e per ognuno di noi aveva un argomento giusto nel quale intavolare appunto la discussione, è sempre stato un grandissimo motivatore. E vediamo se venerdì saprà trovare le corde giuste da toccare in un Milan, e lo diceva prima Furio Fedele, quanto mai depresso. Io ricordo i contatti da casa perché siete tutti convocati, noi parliamo del Milan, poi parleremo di MotoGP, di Valentino Rossi, però voi potete da casa dirci quello che volete. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349-238-6666 per mandare i vostri messaggi, oppure su Twitter l'account è @ tutti convocati. Furio Fedele, oggi c'è grande risalto, io dico anche enfasi, per questa visita annunciata venerdì di Silvio Berlusconi a Milanello. Ho l'impressione che sia più un'operazione mediatica che qualcosa in cui Berlusconi stesso e Galliani credano davvero, comunque leva per il rilancio del Milan. Ma è un'operazione mediatica che vuole cercare così di condurre almeno fino alla vigilia della partenza per Napoli e la data di venerdì pomeriggio non è certo casuale, vuole cercare appunto di distrarre un po' le severe critiche fatte nei confronti di Allegri e della sua squadra. Però secondo me Berlusconi non verrà su certo volentieri, anche perché in questo momento la sua vita personale, la sua vita imprenditoriale, la sua vita politica sono più importanti da un punto di vista anche emotivo rispetto a questo Milan, che secondo me avrebbe potuto fare molto molto meglio, o meglio, avrebbe potuto fare qualcosa di più, 3-4 punti più in classifica, avrebbe potuto gestire meglio anche la Champions League, dove sicuramente alla vigilia questo non era considerato un girone di ferro. Berlusconi arriverà su, non avrà il suo solito sorriso, non c'è nessuna marcia trionfale, anzi, e io penso metà dei giocatori che attualmente sono nella rosa del Milan Berlusconi non sappia nemmeno di chi siano, insomma, parlerà con i veterani, parlerà con quelli che conosce, parlerà soprattutto con Allegri, perché è lui, è l'allenatore che deve cercare di tirare fuori dalle secche di questo inizio di stagione una squadra che ha perso identità, ha perso morale e soprattutto non vince più. 6 sconfitte nelle prime 12 giornate di campionato rappresentano un record veramente inquietante. Sì, un record inquietante che credo vada al di là di ogni valutazione su una rosa che è stata evidentemente indebolita quest'estate, ma che non è costruita per viaggiare alla media di un punto o poco più a partita e con davanti il calendario che abbiamo ricordato prima nel prossimo mese. Giovanni Galli, oggi sul Corriere della Sera viene ricordato il confessionale di una decina di ore, l'11 gennaio del 1989, era un Milan un po' in difficoltà che aveva perso male a Cesena, Berlusconi salì a Milanello, ci rimase per tutta la giornata, quel Milan poi arrivò fino alla finale vinta della Coppa dei Campioni al Camp Nou. Raccontaci che cos'erano le giornate allora di Berlusconi a Milanello. Ma no, ma certo, lui per lui il Milan è sempre stato il valore diciamo aggiunto, no, a quello che era il suo lavoro imprenditoriale, quello che magari la stragrande maggioranza degli italiani non conosceva come imprenditore. Cioè, è logico che vedendo la sua squadra, il suo club preso sull'orlo di un fallimento e riportato nel giro di 2 anni a vincere lo scudetto, addirittura a vincere la Champions, per lui era un'immagine straordinaria. Però con noi è sempre stato straordinario, perché come arrivava comunque, come dicevo prima, aveva sempre delle parole per ciascuno di noi, sapeva per tutti noi, no, quale poteva essere il problema, quale poteva essere la parola giusta. È sempre, come ho detto prima, è sempre stato un grandissimo motivatore. Quello che condivido con Furio e che magari non è stato detto fino in fondo è che questa squadra, secondo me, all'inizio è stata indicata come squadra, no, da poter vincere o perlomeno lottare per lo scudetto, per lottare per la Champions, quando non aveva i mezzi tecnici. Sì, c'è stato un errore quantomeno di comunicazione, Giovanni, se non proprio di strategia, ma io credo anche nella pressione che è stata messa sulle spalle di Massimiliano Allegri. Furio Fedele, Giovanni Galli, vi chiedo un minuto di pazienza, 800 24 00 24 per le telefonate in diretta, 349 238 6666 per i messaggi da casa, oppure su Twitter @ tutti convocati. Un minuto di traffico e poi torniamo per chiudere il discorso sul Milan. Tutti convocati. Ancora il rumore degli elicotteri. Furio Fedele, che oggi sul Corriere dello Sport ha firmato un articolo che ha fatto arrabbiare il Milan di pochi minuti fa, è stata la smentita ufficiale sul sito. Ha raccontato Furio Fedele di un episodio che sarebbe accaduto, è accaduto secondo il Corriere dello Sport, dopo Milan-Fiorentina, con l'auto di Pato all'esterno dello stadio di San Siro circondata da un gruppo di tifosi, qualche insulto, qualche minaccia, qualche manata, insomma, al di là che in ogni caso non si è trattato di nulla di grave, credo Furio la spia di un momento davvero di grande tensione e confusione nel Milan. Ma sicuramente i tifosi sono sempre stati lodati da prima di tutti fra Galliani, da Galliani, scusami, perché hanno sempre mantenuto un atteggiamento di grande solidarietà e di grande collaborazione. Sicuramente la partita con la Fiorentina ha lasciato il segno non solo per la sconfitta, ma anche per le modalità con cui è maturata. La Fiorentina è stata padrona del campo nel primo tempo, la reazione del Milan si è fatta vedere solo prima e poco dopo il gol di Pazzini, e poi è tornata in cattedra la Fiorentina. Quindi i tifosi sono molto amareggiati. Molto discutibile la decisione di Allegri innanzitutto di far calciare Pato, anche perché c'era un rigorista in campo ed era a Montolivo, e soprattutto è stata altrettanto discutibile la decisione di sostituire Pato già alla fine del primo tempo. Un colpo psicologico che si è fatto sentire per il giovane attaccante brasiliano, che sta attraversando un momento molto difficile. È vero, ha recuperato dal punto di vista fisico, ma sicuramente ha bisogno di un supporto diverso, ha bisogno di una fiducia forse incondizionata per tornare il grande attaccante che è stato nei suoi primi due anni milanisti. E c'è grande tensione qui al Milan, anche perché la classifica è assolutamente... Sì, la classifica è una classifica che preoccupa, soprattutto dando un'occhiata a quello che attende il Milan, lo abbiamo detto prima. Però Furio, e poi allargo il discorso anche a Giovanni Galli, su Pato ad esempio, secondo me sono stati spesi troppi apprezzamenti e troppi complimenti dopo la partita con il Malaga, una partita in linea con quello che è Pato in questo momento, impreziosita e differente rispetto alle altre per il gol del pareggio. Io credo che oggi chi scrive, e sono in tanti, che a gennaio in qualche modo Pato sarà sul mercato, anche perché poi a giugno è a un anno dalla scadenza del mercato, dice la verità, tralasciando il particolare che non so quale sia oggi il valore di Pato. Ma sai, non più tardi, anzi poco meno di un anno fa il Milan aveva rifiutato un indennizzo di 28 milioni di euro, 7 milioni dal Paris Saint-Germain. In questo momento Pato evidentemente non è quotabile, perché in una situazione personale dove sicuramente non ci può essere una valutazione serena. Una valutazione economica, certo. In realtà nel mercato di gennaio si potrebbero vedere messi all'asta Robinho e Boateng. Il Milan deve fare cassa prima di poter comprare, anche perché la squadra va sicuramente rivista e corretta. In difesa sicuramente, in attacco e probabilmente anche a centrocampo, anche perché ad esempio è atteso alla partenza il Carnea de Traoré, di cui si sono perse le tracce, come ben ricordate, dopo la partita contro il Cagliari, dove il francese aveva dimostrato tutti i suoi limiti. Sì, uno di quelli di cui magari Berlusconi non conosce neanche la faccia, e che incontrerà venerdì, penso per la prima volta. Giovanni Galli, è finita la storia di Pato col Milan? Bisogna essere anche sereni quando si fanno certe valutazioni. È logico che lo staff del Milan, sia tecnico, sanitario che societario, hanno la situazione sotto mano meglio di tutti noi. Faccio soltanto un esempio: Giovinco alla Juventus ha fatto le prime 8-10 partite inguardabile, cioè mai una volta decisivo, non ha fatto neanche un gol, non era mai entrato, no, in quelli che erano i meccanismi della Juve. Gli è bastato fare un gol contro il North Zealand, l'abbiamo visto già immediatamente come sia cambiato l'entusiasmo del giocatore e l'autostima. Serve poco. È logico che Pato non è un giocatore come Messi o come Maradona, che la partita te la risolve da solo o ha la giocata per risolverla da solo, come ha fatto però in passato. Ha bisogno di utilizzare la squadra. Purtroppo oggi la squadra è quella che è, qualità ce n'è poca, e quando non hai qualità, logicamente le doti e le caratteristiche di Pato in un contesto come questo vengono molto ridimensionate, insomma, per cui la valutazione va fatta proprio... Però non ho mai risposto se la storia è finita, è anche una questione di contratti che vanno quasi in scadenza, il mercato poi ha le sue leggi. Sì, quello decisamente. Personalmente io un altro tentativo lo farei, anche perché vista l'età, insomma, un altro tentativo lo farei, un altro giocatore di questo spessore, se vai a prenderlo sul mercato lo paghi il doppio di quello che oggi puoi recuperare da Pato, per cui anche la situazione economico-finanziaria sarebbe un disastro. Vale la pena comunque puntare, lo scrive anche Federico D'Alessandria, 349-238-6666, e ricorda come Del Piero sia rinato dopo un terribile infortunio grazie ad Ancelotti, che però nel momento difficile non lo toglieva mai. Per chiudere su Allegri, che viene descritto sempre più isolato anche all'interno dello spogliatoio, Furio Fedele, che quello spogliatoio lo conosce bene, volevo capire quanto possa fidarsi Max Allegri di questa fiducia, specificato, sottolineato da Gagliani, non a tempo, anche se poi è evidente che di fronte a un nuovo tracollo, ad esempio a Napoli, il discorso si riaprirebbe. Guarda, ti riporto le frasi di Ambrosini e Abbiati, che sono stati gli unici due milanisti che hanno parlato in zona mista dopo la partita con la Fiorentina. L'approccio alla partita è stato sbagliato, non è stato quello giusto per una squadra, il Milan, che è ancora sofferente. Il 5-1 contro il Chievo ha illuso e al tempo stesso ha disilluso, proprio in virtù del 1-3 contro la Fiorentina, che il Milan fosse guarito. Un abbaglio incredibile, è stato esaltato come un risultato veramente molto positivo, e invece il Milan è ricaduto nello stesso errore: approccio sbagliato, formazione sbagliata, un tempo praticamente regalato all'avversario. Era già successo all'Olimpico contro la Lazio, ricordiamo il 3-0 col tentativo di rimonta 2-3, era già successo a Palermo, anche a Palermo, da 0-2 a 2-2 il Milan probabilmente ha colto anche in contropiede Gasperini con l'ingresso di Bojan, ma è successo soprattutto contro la Fiorentina, una bella Fiorentina allenata da un ottimo tecnico quale Montella, che ha evidenziato tutte le pecche di questo Milan. Quindi ci sono responsabilità evidenti anche di Allegri, e questa alla fine potrà essere la sua condanna, quello che gli verrà chiesto di giustificare, o gli è già stato chiesto, ma evidentemente sul quale probabilmente non sarà possibile per lui difendere neanche prima del finale della stagione la posizione. Il fatto che Berlusconi vuole parlare con i giocatori. Perché vuole parlare con i giocatori, ammesso che ne abbia poi questa grande voglia? Perché vuole capire le condizioni di Allegri nei confronti dei giocatori, altrimenti la fiducia sarebbe incondizionata. Mi sembra molto lapalissiano. Assolutamente. Concetto. Grazie a Furio Fedele. Grazie, ciao Giovanni, buona giornata. E grazie anche a Giovanni Galli. Sì, ciao, grazie a voi. Grazie, dunque, Alessandro Dalla Spezia, Antonio da Pavia. Prima della borsa prendiamo Alessandro Dalla Spezia. Alessandro, sì, buon pomeriggio, prego. Buongiorno a tutti. No, una breve considerazione sul Milan, visto che io sono tifoso da tantissimi anni della squadra rossonera. Beh, nemmeno il più ottimista e realista dei tifosi quest'anno poteva pensare che il Milan potesse lottare per le prime posizioni. Ha ragione il signor Fedele a dire che praticamente della rosa che ha il Milan quest'anno, ma più di metà della squadra, ma molto di più forse della metà della squadra, sarebbero state delle discrete riserve in un Milan normale. Quindi le colpe vanno senz'altro attribuite alla società, che ha allestito una squadra abbastanza mediocre, ma ci ha messo del suo. Ci ha messo del suo anche Allegri. Grazie. Molto, tantissimo. Grazie Alessandro. Sottoscrivo e aggiungo, ma l'ho detto anche Giovanni Galli, che poi la colpa probabilmente numero uno è stata dire a fine agosto: adesso il signor Allegri con questa rosa, con Bojan e De Jong, deve sapere che dovrà lottare per lo scudetto. Ci fermiamo per le notizie di borsa. 800 24 0024 349 238 6666. Pochi minuti e siamo qui. L'imitazione di Crozza gli dà fastidio e ti fa sorridere? Come la come l'ha presa mia moglie, cioè, continua quando mi vede arrabbiato, continua a dirmi agghiacciante, quindi noto con piacere anche che i vocaboli che uso comunque poi diventano anche un cult, no? Io penso che Crozza lo faccia bene perché alla fine mi invidia i capelli, perché lui è proprio pelato, quindi io invece sono andato lontano per cercare, ecco, di essere diverso da lui, e facendo questa operazione, anche se lo stress adesso mi sta facendo di un'altra volta ricadere i capelli trapiantati, questo non va bene. convocati. È venuto il momento che Antonio Conte dica la mia di questa cosa assurda che mi è capitata, di questa giustizia sportiva che, credetemi, lor signori, è agghiacciante. Questo ovviamente era Crozza. Ieri però è tornato a parlare Antonio Conte, lo abbiamo sentito anche prima. Sentiamo questo passaggio di Conte che è parso particolarmente frizzante. Effettivamente me ne sono fatta costruire una a casa. Mia moglie ha avuto questo pensiero carino di costruirmi una panchina durante, cioè la sera quando guardo la televisione io c'ho una panchina di fronte il televisore e mi siedo. E ogni tanto faccio venire anche qualcuno dello staff, perché poi devo litigare con qualcuno. Questo invece era Conte quello vero. Saluto Massimiliano Nerozzi, collega della Stampa, che al 349-238-6666 ci corregge. Dice: prima del North Sea Island Giovinco aveva già segnato 3 volte, 2 a Udine e 1 contro la Roma. Su come gioca ognuno è libero di esprimere i suoi pareri, ma le cifre andrebbero dette giuste. Le cifre sono quelle che ha detto Massimiliano Nerozzi. Io invece la penso come Michele, che sempre al 349-238-6666 dice: i due attaccanti della Juventus, quelli titolari, dovrebbero essere Vucinic e Quagliarella. Sottoscrivo, perché Quagliarella è, almeno a livello realizzativo, un top player in questa stagione. Antonio da Pavia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buongiorno. E grazie per la pazienza, prego. Un breve pensiero su Stramaccioni e Inter, essendo sì. Io uno tipo criterista, ho visto una Stramaccioni è un tecnico che io ammiro, è un giovane, vedo che sta imparando e sta imparando velocemente. L'ho ammirato nell'approccio psicologico e tattico con cui ha affrontato la Juventus, perché la Juventus, quando Stramaccioni ha giocato con i 3 attaccanti, la Juventus deve giocare in campo aperto e quindi i 3 attaccanti hanno trovato terreno aperto per poter avere un confronto aperto con la Juventus. Allo stesso modo ho trovato un errore tattico, psicologico, forse anche un pizzico di, come potrei dire, di arroganza, non so come definirla, quando ho affrontato l'Atalanta. L'Atalanta è una squadra che si deve difendere, li aspettava e quindi poi ha giocato di rimessa. Non era da giocare con i 3 attaccanti, a mio avviso era da giocare con un centrocampo un po' più folto per fare delle ripartenze. Era da provare a essere un po' più provinciali, Antonio, un po' più provinciali. Forse lo Stramaccioni della trasferta di Torino avrebbe affrontato l'Atalanta con un po' più di prudenza, può essere. Io però mi auguro che lei impari da... Secondo me è un errore, ma poi sa, col senno di poi è facile giudicarlo. Io mi auguro e spero che lui abbia capito, perché sono 2 contesti diversi, un conto affrontare la Juventus e un conto affrontare l'Atalanta. Certo. L'Atalanta propone certamente oggi delle difficoltà diverse rispetto alla Juventus, ha ragione Antonio, però io credo anche che domenica una caduta dell'Inter fosse fisiologica su un campo difficile con tante assenze, soprattutto dietro, e domenica il lato negativo della prestazione dell'Inter è certamente la tenuta della difesa, che ha concesso tanto, in alcuni momenti è andata in grande difficoltà. Non so quante squadre saranno capaci a Bergamo di creare le occasioni, il numero di occasioni che ha creato l'Inter domenica sera, perché in fondo alla fine la partita poteva anche non essere persa da Stramaccioni, però io credo che se resterà ben piantato in testa all'Inter che l'obiettivo non è lo scudetto, o comunque può essere un obiettivo lottare ma non un obbligo vincere, questa è una squadra che dal punto di vista psicologico e del progetto può soltanto crescere nei prossimi mesi. Roberto dalla provincia di Lecco, buon pomeriggio. Buongiorno a lei. Prego. La cosa che volevo sottolineare di Allegri è che finora non è ancora stata mai sottolineata da alcuno è la mancanza di organizzazione nella squadra. Se si nota sia sui calci da fermo, corner o punizioni, e soprattutto nelle rimesse laterali, non c'è nessuno che sa cosa deve fare. Sì, però io credo che questo. Di vecchio stampo, io però credo, Roberto, che questo sia anche il frutto del momento difficile, perché anche gli errori che sono stati commessi domenica contro la Fiorentina non possono essere colpa unicamente dell'allenatore, perché non esiste, credo, in Serie A un allenatore che non dica ai suoi giocatori, ammesso che esistano giocatori che abbiano bisogno di sentirselo dire, ad esempio, che su un'azione di palla ferma, su una rimessa laterale, addirittura gli uomini in area di rigore vanno marcati. Ebbene, è successo due volte. Il gol del raddoppio di Borja Valero è incredibile, la facilità con cui il centrocampista entra centralmente e supera prima Montolivo e poi Mexès, che addirittura sembra quasi non porre resistenza. Io credo che non tutto possa essere addebitato ad Allegri, credo che al Milan in questo momento comunque vada tutto storto, perché quando il vento tira contrario è difficile riuscire a rimettersi in piedi, e poi probabilmente anche il cambio dell'allenatore può essere una medicina. In fondo l'anno scorso l'Inter, mandando via Gasperini e con Ranieri, è riuscita a portarsi fuori dalle zone pericolose della classifica e poi ha vissuto una stagione certo non trionfale ma quantomeno dignitosa. Marco da Firenze, buon pomeriggio. Buonasera. Prego. A proposito del Milan, volevo dire che innanzitutto gli errori di comunicazione, cui non ha creduto nessuno a questa comunicazione, non fanno punti in classifica. Secondariamente, secondo me, gli errori sono stati nella campagna acquisti, cui credo abbia partecipato anche Allegri, a prescindere dalle cessioni di Ibrahimovic e Thiago Silva, e soprattutto in certe formazioni di Allegri, che dovrebbe far tesoro della rosa che ha, che non sarà eccelsa ma nemmeno da buttare via, e invece ha fatto delle formazioni, secondo me, proprio da kamikaze, vedi quella col Malaga in trasferto, oppure domenica con la Fiorentina, è emblematica, non puoi giocare in quel modo con una Fiorentina che notoriamente ha un centrocampo così forte, così bravo nel palleggio, con quella formazione lì. Sì, però vede Marco, quella formazione, o comunque quell'idea di formazione, era la stessa, lo raccontava prima anche Furio Fedele, con cui il Milan ha battuto 5-1 il Chievo, si era convinto, probabilmente anche l'ambiente intero aveva preso convinzione di aver visto la luce in fondo al tunnel, e io credo che sia normale e anche logico che Allegri si aggrappi a quella piccola certezza che la partita con il Chievo gli ha regalato, perché in questo momento Allegri di certezze ne ha poche, ne ha pochissime, e quindi se vede la luce è giusto anche che provi a seguirla. Pasquale da Latina, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. È inutile che ripeto, sono milanista, è inutile che ripeto tutto quello che è stato detto, sono concordo con tutti gli altri radioascoltatori. Volevo chiedere una cosa al nostro carissimo presidente, un ringraziamento per tutto quello che ha fatto in questi anni, per l'amor di Dio, ma se le sue priorità sono altre, politica e quant'altro, non farebbe meglio accedere questa società a chi ne ha voglia di costruire di nuovo qualcosa di grande? Sì, ma io credo, Pasquale, che non sia nemmeno più un problema di priorità politiche, anzi mi pare di poter dire che in questo momento anche quella fase della vita di Berlusconi in un certo senso si sia chiusa o stia andandosi a chiudere. Io penso che sarebbe più corretto semplicemente prendere atto che in questo momento Berlusconi non ha la forza economica per sostenere un rilancio importante sul Milan, e probabilmente non ce l'ha nessuno in Italia, perché le difficoltà, al di là di qualche errore poi di progetto in più o in meno, le sta attraversando Moratti, prima o poi finirà anche la fase di spinta della famiglia Agnelli e della Fiat per questo nuovo ciclo della Juventus. Cioè, la domanda che faccio io, Pasquale, è: va bene, rottamiamo Berlusconi, mettiamolo da parte, cancelliamo o comunque lasciamo in bacheca i suoi 26 anni alla presidenza del Milan, e dopo però che cosa resta? Perché a me non sembra che dietro l'angolo ci sia qualcuno davvero disposto ad investire sul Milan tante centinaia di milioni di euro, ad investire sul calcio italiano. Ricordo sommessamente che si è chiuso il primo bilancio della prima proprietà straniera in Italia, che è la proprietà americana per la Roma, e al di là dei risultati sportivi ha chiuso con un passivo di bilancio superiore ai 50 milioni di euro. Grazie Pasquale. Hassan da Verona, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Le chiedo a San di pazientare un minuto, ci fermiamo, c'è il traffico, poi riparto da lei. Traffico. Tutti convocati. Quando si parla di soldi, tu mi fa sparare di professionisti. io per primo e i calciatori dobbiamo essere professionisti nel nostro lavoro, quindi e se noi abbiamo una squadra fatta di uomini, allora vinciamo. Quando dietro l'uomo invece c'è un quacquaraquà, un uomo di poca cosa, e allora sono i primi che ti fanno affondare, e quindi preferiamo lasciare questi giocatori agli altri. Questo è Crozza o Conte? No, è Conte. Conte quello originale, e si riferiva ad Antonio Cassano. Hassan da Verona. Sì, buongiorno. Prego. Voglio parlare un po' di Milan e di Berlusconi. Penso che Berlusconi, mi sembra che fa bene a non andare a fare la visita a Milano, perché questa squadra qua, ho visto anche le ultime partite che ha fatto, ha giocato con tanti moduli, con tanti tatticismi, e poi anche in zona difesa giocano a zona, uomo, c'è lanci lunghi. Ormai capisco Galli che parlava anche di un modo nostalgico di Milan, ma il Milan di Rijkaard, Gullit, Baresi, o anche quello di ieri di Ibrahimovic e Thiago, di altri, è molto ma molto lontano di questo. Ma avete visto come viaggia la Real Madrid e il Barcellona come gioco? Sì, ma viaggiano molto più veloce e con un gioco certamente molto più piacevole, non solo del Milan in questo momento. Io credo che ad esempio settimana scorsa aver visto la partita tra Real Madrid e Borussia Dortmund e aver visto le altre, quelle che interessavano l'italiana in Champions, abbia dato l'impressione in alcuni momenti di vedere due sport diversi. Ciò non toglie che probabilmente una maggior vicinanza di Berlusconi al Milan anche in questo momento può aiutare probabilmente Allegri e tutto il gruppo a trovare qualche certezza in più. Grazie a San, io ringrazio anche, no, è caduta la linea, adesso proviamo a ritrovarla. Vogliamo parlare con Graziano Rossi, il papà di Valentino Rossi, di questo che è stato il primo giorno della nuova vita agonistica di Vale Rosse, di Vale Rossi, i test con la nuova Yamaha da Valencia, in realtà test praticamente per nulla significativi dal punto di vista del riscontro cronometrico, perché piove e fa freddo, ma che hanno attirato grandissima attenzione. Graziano. Sì. Ecco, buon pomeriggio Graziano Rossi. Ciao. Abbiamo recuperato allora la linea. Hai visto Valentino? Ho visto Valentino, sì, sì. È tornato a casa. Io ho visto il cupolino della sua Yamaha. Io a Valencia. Sì. Io a no, Valencia, è tornato a casa la Yamaha, dico. Ah. È tornato a casa Yamaha, sì, sì, per fortuna, finalmente, finalmente. Ho visto sul cupolino il ciao come stai, ti vedo bene, mi sei mancato, anche tu. La storia con la Ducati è durata forse qualche mese di troppo. La storia con la Ducati è durata il tempo che si era stabilito che durasse, ed è durata così, e le storie purtroppo non vanno sempre tutte bene. Ho visto delle immagini, era molto atteso oggi lì a Valencia, gran ressa di fotografi, di telecamera ai box, segno che questi due anni non hanno arrugginito l'immagine di Valentino. Assolutamente, assolutamente no, non ne hanno arrugginito l'immagine, e speriamo tutti che non ne abbiano arrugginito nemmeno la forma fisica e nemmeno la capacità di guidare la moto GP, ecco, nemmeno il lustro sportivo, speriamo che non ne abbiano arrugginito nemmeno quello. Tu ci credi a questo ritorno alla vita agonistica? A questo ritorno alla vita agonistica? Agonistica. Da agonista, da pilota che può lottare per il mondiale, per una vittoria, che non si deve rassegnare a correre per il sesto, settimo, ottavo posto. Io naturalmente sono quello che ci crede forse più di tutti, e assolutamente sì. Io credo che la gente, i tifosi, possono essere anche un tantino preoccupati da questi due anni in cui Valentino non ha corso con i ritmi da vittoria, no? Però io mi sentirei di rassicurarli, perché Valentino ha comunque in questi due anni avuto alcune situazioni, ad esempio sul bagnato, in cui la Ducati era competitiva, e Valentino è andato in tutte queste occasioni, in queste due o tre occasioni, molto forte. Quindi questo che significa che la sua capacità comunque è intatta, però questo, insomma, detto da me non fa molto testo, io sono abbastanza di parte. Sì, direi abbastanza di parte, ma del resto sì. Ne hai tutte le ragioni, però il messaggio che viene anche da questa giornata, abbiamo detto il riscontro del cronometro è assolutamente superfluo in una giornata come questa, è che Valentino Rossi è carico ed è convinto. Il fatto di aver scelto ad esempio di andare in casa di Lorenzo, del campione del mondo, è una conferma ulteriore che dentro di lui esiste ancora lo spirito dell'agonista. Guarda, Valentino ha fatto una scelta per tornare a vincere in MotoGP, no? Quindi una moto super competitiva come la Yamaha, era scontato che un avversario, uno o qualche avversario forte, comunque se lo dovesse trovare sul suo cammino. Ma Lorenzo se lo sarebbe trovato lo stesso in pista l'anno prossimo. Quando tu punti a vincere, Lorenzo oppure Pedrosa oppure anche qualcun altro, te li trovi assolutamente fra i piedi. Ah, devi sapere che li devi battere, li devi tenere dietro se vuoi vincere. Devi battere in qualche modo. Allora probabilmente tanto vale affrontarli con le loro stesse armi, quindi tanto vale affrontare Lorenzo con una Yamaha, quindi tanto vale cercare di salire sulla stessa moto. È chiaro che questo è una verifica che Valentino dovrà fare su se stesso, assolutamente non facile, no? Però è una sfida che certamente lo stuzzica e gli piace. Assolutamente sì, anche perché viene da un insieme di motivazioni di 2 anni, messe insieme per 2 anni. Io credo che se si dovesse parlare di motivazioni ce ne sarebbero a sufficienza per vincere già dalla prima gara, se bastasse questo, ecco. Certo, un abbraccio a Graziano Rossi. Un abbraccio tu oppure qualche tua... No, un abbraccio tutti, qui dallo studio. Sentiamo il rumore della moto, ti invidiamo, perché insomma la prossima stagione della MotoGP sta nascendo in questi minuti, perché poi questi test sono importanti e noi abbiamo sottovalutato un po' il risultato agonistico di oggi. Però la verità è che sta nascendo un bambino e quel bambino è il prossimo mondiale della MotoGP. Grazie a Graziano Rossi. Daniele da Milano, siamo in chiusura, buon pomeriggio. Sì, buongiorno, volevo dire due parole sul mio Milan, sul quale onestamente non sono così negativo, nel senso che francamente io sono andato a vederlo con lo stadio contro il Malaga in 2 settimane, il Malaga quando siamo andati là ci ha fatto neri, nel senso che correvano certo. 3 volte più forte. Quando ho visto a San Siro e visto dallo stadio, dove si vede meglio che dalla TV, la squadra era cresciuta ed era cresciuta di parecchio. Io credo che sia un progetto di squadra che sta nascendo con molta sfortuna. L'unico errore, secondo me, vero che ha fatto Galliani, se posso permettermi, è stato quello di non aver tenuto un leader come Marc Van Bommel, ad esempio, a gestire questa transizione, perché soprattutto inizio stagione si è visto che la squadra nei momenti difficili non aveva qualcuno che la guidava, quindi forse un uomo come Van Bommel, convinto a rimanere un altro anno, avrebbe aiutato a gestire questa transizione. Sì, o forse se nei mesi scorsi Allegri fosse stato aiutato a non chiudere la porta in faccia in maniera troppo rude a qualche vecchio senatore, mi viene in mente Nesta o Gattuso, almeno uno dei due in quello spogliatoio in questo momento farebbe certamente comodo. Grazie a Daniele, noi ci fermiamo qui. L'appuntamento con tutti i convocati è per domani, sempre a partire dalle ore 14. Io ringrazio e saluto Franco Piantenide in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Un saluto anche da Giovanni Capuano. Ci sentiamo domani a partire dalle ore 14.